ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Quattordicesima puntata. Mi venne allora in mente che Belle Signore, il nome della via là vicino, era molto notturno per la Sicilia. Significava gli spiriti. L'uomo rimasto ignudo e inerme andava nella notte e incontrava gli spiriti, le belle signore cattive, che lo molestavano e schernivano, e anche calpestavano, tutte fantasime di azioni umane, le offese al mondo e all'umano genere uscite dal passato, non già ai morti, ma fantasime, cose che non appartenevano al mondo terreno. E l'uomo che il vino o altro aveva reso inerme era in genere preda loro. Diceva i re, gli eroi, e si lasciava invadere la spoglia coscienza, le antiche offese accettava per glorie. Ma qualcuno, Shakespeare o mio padre shakespeariano, si impadroniva invece di loro ed entrava in loro, svegliava in loro fango e sogni e le costringeva a confessare le colpe, soffrire per l'uomo, piangere per l'uomo, parlare per l'uomo, diventare simboli per l'umana liberazione. Qualcuno nel vino e qualcuno no. Un grande Shakespeare, nella purezza delle sue notti di meditazione senza paura, e il piccolo mio padre nell'oscurità folle delle sue notti cresciute sotto il vino. Questo era il male per mio padre, che fosse ignudo e folle nel suo vino. Povero uomo. Noè da coprire con pietoso panno, non uomo di segni e prodigi. Io ad ogni modo non lo sapevo. La notte giungeva lungamente attesa da noi alle finestre e occupava la tonda campagna, senza alberi, senza foglie. Spuntava mio padre già vestito per la recita, spuntavano i suoi uomini. «Pronti?» diceva. E staccava dal muro il suo corno di caposquadra cantoniere. Senza chiasso montavamo sul carrello, noi di Amleto. Mia madre prendeva posto nel mezzo con una sedia. Noi ci mettevamo intorno ai suoi piedi e mio padre manovrava da prua mentre i due uomini spingevano. Così correva il carrello, di giorno per i servizi di Badile lungo la linea, di notte per Amleto. I due uomini spingevano un momento, poi, cominciando una discesa, salivano anch'essi e non si parlava più. Il carrello correva da solo verso una sala d'aspetto in una stazione, se era inverno, e se era estate verso una ferroviaria pianura dove la recita aveva luogo all'aperto, tra i mietitori venuti dal grano e tra fuochi, tra grida, con mio padre ossesso montato su un palcoscenico di traverse. Ah, la notte allora! Dai paralleli della terra abbaiavano i cani, agli orizzonti, e i sette cieli invisibili, le montagne della Via Lattea, si riempivano di gelsomini. 10, 15 erano le stelle, pure noi ne sentivamo un profumo di milioni. E mio padre aveva suonato il corno da principio, poi avvertiva qualcosa nell'orecchio e gridava: «Chi va là?» Si trattava di qualche altro carrello sulla linea avanti a noi. «Polonio» era la risposta, oppure «Fortebraccio», oppure «Orazio». E tutti erano uomini ignudi e folli che si impadronivano delle fantasime per virtù del vino. «Oh, mondo offeso! Mondo offeso!» gridai io a questo pensiero. Non mi aspettavo risposte se non dalla memoria. Invece me ne giunse una dalla sottostante terra. Fu una voce che disse: «Qualche altro arrotino», pensai. Guardai giù, cercando, e non vidi niente. Non c'erano che i soliti lumi nella fredda calma. «Che c'è?» chiamai. Rispose di nuovo la voce. Guardai, cercando meglio, e allora vidi che i lumi non erano i soliti delle chiuse stanze dove abitavano gli uomini. Pareva che quelli fossero spenti. I nuovi bruciavano rossicci nell'aperta notte. Erano come lanterne di ferrovieri posate in terra per il vallone. Ma io cercavo colui che aveva detto «Ehm?» «Ehm?» disse. «Ehm?» «Ehm?» «Ehm?» «Ehm?» rispose la terribile voce. Mi decisi a scendere per cercarla e scesi. Mi trovai tra quei lumi come lanterne abbandonate. Vidi che erano lumi di morti. «Ah, sono nel cimitero», dissi. La voce rispose. «Chi siete?» io dissi. «Siete il becchino?» rispose la voce. «No, no. Faccio il soldato». Mi sforzai di vedere. La voce suonava vicina, ma i lumi dei morti non davano intorno chiarore. «Strano», dissi io. Il soldato rise. «Strano. Siete forse di guardia qui?» io gli domandai. «No», disse il soldato. «Mi riposo». «Qui tra le tombe!» esclamai. «Son belle tombe comode», disse il soldato. E io dissi, «Forse siete venuto per pensare ai vostri morti?» «No», il soldato rispose, «semmai penso ai miei vivi». «Ah», io dissi, «all'amorosa, suppongo». E il soldato, «un po' a tutti, a mia madre e i miei fratelli e i miei compagni e i compagni dei miei compagni e a mio padre in Macbeth». «Vostro padre in Macbeth?» io esclamai. «Certo, signore», il soldato rispose. «Egli usa recitare le parti dei re, pover'uomo». «Com'è possibile?» io esclamai. «Oh, sì», disse il soldato. «Loro pensano che gli dei tollerino nei re quello che abborrono negli esseri volgari». «Ma com'è possibile?» esclamai io di nuovo. «Anche mio padre è così». «Bene», il soldato osservò, «sono così tutti i padri. E mio fratello Silvestro...» io diedi quasi un urlo. «Vostro fratello Silvestro?» «Perché gridate?» il soldato chiese. «Non vi è nulla di straordinario ad avere un fratello Silvestro, povero ragazzo». «No», risposi io, «ma Silvestro è il mio nome». «E con questo», disse il soldato, «i nomi sono pochi e gli uomini tanti». Io chiesi, «a 30 anni, vostro fratello?» «No, signore», il soldato rispose. «Egli è un fanciullo di 11 anni o 12, in calzoni corti, con la testa piena di capelli, ed è innamorato. Ama il mondo. È come me in quest'ora». «Come voi?» mormorai. «Sì», il soldato rispose. «Nulla può offenderci nel nostro amore, lui fanciullo e me». «Voi che cosa?» mormorai. Il soldato rise. Rise. Io allungai la mano. «Dove siete?» «Di qua», disse il soldato. Io andai di là cercandolo con la mano, ma niente raggiunsi. I lumi senza chiarore dei morti erano già una lunga strada dietro le mie spalle e molti erano ancora intorno, davanti. «Dove siete?» domandai di nuovo. «Di qua, di qua», il soldato disse. «Ah, da quest'altra parte!» io esclamai. «Sicuro!» rispose lui. «Da quest'altra!» «Come?» io esclamai. «A sinistra, dunque!» il soldato disse. Mi fermai. Ero forse nel fondo del vallone. I lumi dei morti brillavano senza rischiarare anche più in alto di me, ora. «Insomma», gridai, Ci siete o non ci siete? Rispose il soldato. È quello che mi domando io stesso alle volte. Ci sono, non ci sono. Ad ogni modo posso ricordare e vedere. Che altro? Io chiesi. Basta, il soldato disse. Vedo mio fratello e vorrei giocare con lui. Ah, io esclamai. Vorreste giocare con un fanciullo di 11 anni? Perché no? Il soldato rispose. Egli è più grande di me. Ho 7 anni io, se lui ne ha 11. Io gridai. Come? Siete un soldato di 7 anni? Il soldato sospirò e in tono di rimprovero disse. Immagino che abbia sofferto abbastanza per giungere a questo. A questo, io dissi. Ad essere soldato? No, egli rispose. Ad avere 7 anni, giocare con mio fratello. State giocando con vostro fratello? Io gli chiesi. Sì, signore, egli rispose. Con licenza vostra sto anche giocando. Anche? Io osservai. Che altro fate? Faccio dell'altro molto, egli rispose. Parlo con una ragazza. Poto vite. Innaffio un giardino. Corro. O voi dimenticate che siete tra queste tombe, dissi io. Niente affatto, egli rispose. So bene di essere anche qui e che nulla può offendermi. Sono tranquillo quanto a questo. Insomma, siete felice, io osservai. Egli sospirò di nuovo. Come posso esserlo? Giaccio su un campo di neve e di sangue da 30 giorni. Ma che assurdità andate dicendo, io esclamai. Ora il soldato non mi rispose subito. Così potei udire un momento il grande silenzio che era tra me e lui. Il soldato fece. Feci io. E il soldato. Avete ragione. Scusatemi. Era il mio parlar figurato. Io respirai soddisfatto e di nuovo allungai istintivamente la mano. Dove siete? Di qua, il soldato disse. Come la prima volta, lo cercai per qualche minuto a sinistra, a destra, poi vi rinunciai. È troppo buio, dissi. Già, lui rispose. E io mi misi a sedere su una tomba col lume del morto accanto. Meglio sedersi. Meglio così, il soldato rispose. Tanto più che abbiamo la rappresentazione. La rappresentazione? Io esclamai. Che rappresentazione? Non siete venuto per la rappresentazione? Disse il soldato. E io non so nulla di rappresentazioni. E il soldato. Oh, sedete e vedrete. Ecco che arrivano. Io. Chi sono che arrivano? Il soldato. Tutti loro. Re e oppositori, vincitori e vinti. Io. Davvero dite? Non vedo nessuno. Il soldato. Questo è forse per via del buio. Io. Allora perché fanno la rappresentazione? Il soldato. Debbono farla. Essi appartengono alla storia. Io. E che rappresentano? Il soldato. Le azioni per le quali son gloriosi. Io. Come? Ogni notte? Il soldato. Sempre, signore. Fin quando Shakespeare non mette in verse il tutto di loro e i vinti vendica, perdona i vincitori. Io. Che cosa? Il soldato. L'ho detto. E io. Ma allora è terribile. Il soldato. È spaventoso. Io. Immagino che soffrono molto. Cesare non scritti. Macbeth non scritti. Il soldato. E i seguaci, i partigiani, i soldati. Soffriamo, signore. Io. Anche voi? Il soldato. Anche. Io. Ma come anche voi? Il soldato. Anch'io rappresento. E io. Rappresentate. State rappresentando ora? Il soldato. Sempre. da 30 giorni in qua. Io... Ma non dicevate di giocare col vostro fratello di 11 anni, il soldato? Sì. E parlo con una ragazza, poto una vite, innaffio un giardino. Io... O dunque? Il soldato non rispose. O dunque? Io insistetti. Il soldato rispose. Perché, em? Gridai io. Di nuovo il soldato non rispose. Pronto? Io chiamai. Pronto, rispose il soldato. Io temevo che me ne foste andato. Lui, no. No, sono qui. Io non vorrei che ve ne andaste. Lui, non me ne vado. Bene, dissi io. Ed esitai. Dissi bene un'altra volta. Un'altra volta esitai. Un'altra volta dissi bene. Infine chiesi. È una brutta cosa. Oimè. Sì, rispose lui. Legato schiavo, trafitto ogni giorno di più sul campo di neve e di sangue. Ah, io gridai. È questo che rappresentate? Per l'appunto, il soldato rispose. A questa gloria appartengo. Dissi io, ed è molto soffrire. Molto, disse lui. Per milioni di volte. Io, per milioni di volte. Lui, per ogni parola stampata, ogni parola pronunciata, per ogni millimetro di bronzo innalzato. Io, vi fa piangere. Lui, ci fa piangere. Ma pure, io dissi, giocate col vostro fratello e parlate con quella ragazza, fate tutte quelle altre cose. Non è una consolazione? Non lo so, rispose il soldato. Non basta? Io osservai. Non lo so, rispose di nuovo il soldato. Dissi io, voi mi nascondete qualche cosa. Sembrava che foste tranquillo e che nulla potesse offendervi. Così è. Il soldato rispose. Allora, gridai, non è vero che piangete? Ohimè, sospirò il soldato. Con umile voce gli chiesi, posso fare nulla per consolarvi? Egli tornò a rispondere che non sapeva. E io suggerii, forse una sigaretta. Mi cercai in tasca per le sigarette e soggiunsi, volete che proviamo? Proviamo, egli rispose. Tesi la sigaretta. Ecco, gli dissi. Ma la sigaretta mi restò in mano. Dove siete? Chiamai. Sono qui, disse il soldato. Mi alzai in piedi, mi avanzai di un passo, di un altro passo e sempre tendevo la sigaretta, ma sempre la sigaretta mi restava in mano. Insomma, la volete o no? Gridai. La voglio, la voglio, il soldato rispose. Gridai, tenete allora. Il soldato non mi rispose. Tenete? Dove siete? Gridai. Il soldato non mi rispondeva più. E io continuai a gridare, cominciai a correre. Mi trovai fuori dal vallone, di nuovo sul pianerottolo della casa di mia madre. Vidi che il cimitero era molto lontano sotto a me, coi suoi lumi. Dormii tutto il resto di quella notte e dimenticai, ma quando mi svegliai era ancora tempo notturno. Ceneri fredde avvolgevano nel ghiaccio dei monti la Sicilia e il sole non si era levato, non si sarebbe più levato. Era notte senza la calma della notte, senza il sonno. Per l'aria volavano corvi, dai tetti, dagli orti, partiva ogni tanto uno sparo. «Cos'è?» chiese mia madre. «Mercoledì», mia madre rispose. Essa era tranquilla, di nuovo con la sua coperta sulle spalle, con gli scarponi da uomo ai piedi, ma d'umore chiuso, negata a parlare. «Oggi riparto», le dissi. Mia madre si strinse nelle spalle, seduta con sul capo la cenere che avvolgeva la Sicilia. «Ma che cos'è?» gridai. Mi alzai e uscii sul pianerottolo e mia madre lentamente mi seguì. Era come se mi sorvegliasse. «Pam!» fece un fucile. «A che tirano?» io chiesi. Mia madre s'era fermata sulla porta e guardava in alto dove volavano i corvi. «A loro?» chiesi io. «Sì, a loro», mia madre rispose. Di nuovo scoppiò una fucilata e lacerò la cenere dell'aria. I corvi gracchiarono, invulnerabili. Ridono, io osservai. Non t'è passata la sbornia, disse mia madre. La guardai. Essa era lì, ripeto, come se mi sorvegliasse. Avevo la sbornia, dissi. Non lo sai nemmeno, disse mia madre. Sei tornato preciso come tuo padre quando tornava con la sbornia, nero, e sei andato a gettarti sul mio letto, mi hai fatto dormire sul sofà. Scoppiò un'altra fucilata. Io non capisco che vi succede, mia madre continuò. Tuo nonno cantava e scherzava quando aveva bevuto. Una quarta fucilata si alzò da un orto, una quinta seguì, ma i corvi volavano sempre invulnerabili per l'alta cenere del cielo e non cambiavano mai traiettoria e gracchiavano, ridevano. «Perché questi corvi?» esclamai. Ora mia madre era diventata attenta, guardava aspettando che qualcuno degli uccelli cadesse. «Ma davvero tirano a loro?» io le chiesi. Una sesta, una settima fucilata fallirono e mia madre si stizzì. «È inutile, non li pigliano», disse. Rientrò in casa e tornò di corsa con una doppietta. Si mise a sparare anche lei. «Pam! Pam!» Ma nulla alterò l'irraggiungibile volo dei corvi. «Ridono!» io osservai. «Pam! Pam! Pam!» mia madre rispose. Allora si alzò una voce di grassa donna dal piede della scaletta e portò un annuncio a mia madre. Le gridò fra gli spari e i corvi: «Madre Fortunata!» Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.